9 in punto, la versione di Oscar. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Non ti guarderò mai più negli occhi, venerdì 25 novembre, ancora sulle note dei Doors. E a che cosa dedica oggi la sua copertina l'Economist? Cari Topolino, ascolta, a che cosa la dedica? La dedica alla stessa, allo stesso tema di questa canzone. Siamo alla fine, e trovate sulla copertina dell'Economist un meteora fiammeggiante, una cometa fiammeggiante, e l'euro, e la domanda è: ma è possibile che questi non capiscono che così si va a sbattere? Ieri il summit trilaterale con il presidente francese, con il cancelliere tedesco Angela Merkel, del premier italiano Monti, bene per l'Italia, nel senso che è evidente già dalle immagini, dai toni, dai contenuti dello scambio a tre di giudizi che l'Italia è tornata nella fiducia, nel pieno sostegno, è tornata nel club dei fondatori europei. Però al di là di questo, cioè al di là della fine della separazione, dell'isolamento, della mancanza di rapporti, della disistima che toccava all'Italia sotto il governo con il premier precedente, al di là di questo e al di là del sostegno esplicito venuto dai capi di governo tedeschi e francese alle tra virgolette riforme impressionanti che Monti ha loro illustrato con tanto di reazione della politica italiana, che dice ecco, a loro le illustra, e qua in realtà siamo alla fine della settimana e ancora non si è visto niente. Al di là di quello, per l'Europa, diciamo, il vertice di ieri è un vertice che non promette niente di buono per l'Eurovertice dell'8 dicembre, che sarà il giorno quello nel quale o si dà una risposta oppure l'avvitamento della crisi prosegue a velocità ancora più rapida. E io temo molto nel fatto che sarà questa seconda la ipotesi realistica, perché ieri, per farla breve, si è capito solo che la Germania continua nel suo doppio nine, sia a una proposta di federalizzazione del debito pubblico, a bond di stabilità, sia a un ruolo illimitato della banca centrale. La Francia si è molto arrabbiata per questo, in realtà Sarkozy ieri è la prima volta che usa toni veramente molto duri nel post vertice, ha ispirato le posizioni che leggete su Le Monde, e c'è stata anche una nota dell'Eliseo nel pomeriggio veramente molto aspra nel additare i tedeschi come responsabili della totale incomprensione che con i loro no si provoca sul futuro prossimo dell'euro. L'Italia si è collocata in una posizione intermedia, cioè ha riconosciuto l'ortodossia della posizione tedesca nel fatto che a trattati vigenti non si può chiedere, la politica non deve chiedere, perché significherebbe ledere l'autonomia della BCE, una federalizzazione attraverso il torchio monetario dei debiti nazionali, e tuttavia, sposando la via della modifica dei trattati, ha detto che a quel punto i bond di stabilità servono, quindi una posizione intermedia. La sintesi di tutto questo, a mio personale giudizio, è questo: nel riconoscere che la politica non ha strumenti e deve tacere, deve rispettare l'autonomia della BCE, la BCE non deve produrre sostegno illimitato ai debiti pubblici, deve continuare negli acquisti selettivi i titoli dei paesi che stanno male, ma è libera, indipendentemente, cioè di farlo liberamente da quello che non devono chiedere i governi, di procedere a un quantitative easing un po' come la Fed, e quindi sostegno illimitato innanzitutto alle banche, e si è già visto il primo segnale ieri, le linee di liquidità straordinarie alle banche sono passate da annuale a pluriennale, quelle garantite dalla BCE, eventuale apertura alla possibilità di assunzione di asset liquidi da parte delle banche, eventuale sostegno sui mercati anche attraverso l'acquisizione di altre classi di asset di quotate, come appunto ha insegnato la BCE, la Fed, perdonate, di Ben Bernanke. Sono politiche monetarie non ortodosse, di intervento diretto sui mercati per sostenere i corsi. Credo che questa sia in sintesi la conclusione di ieri, se la BCE vorrà farla in piena autonomia, perché intanto altrimenti la via della riforma dei trattati e la via parallela di subordinare quindi una parziale federalizzazione dei debiti pubblici eccedenti la soglia di sicurezza dei paesi che sono più a rischio, in cambio cambio però di un regime più cogente di controlli sulle finanze pubbliche nazionali, quella è una prospettiva che dura almeno un anno e mezzo per la riforma dei trattati, perché bisogna fare prima una convenzione, poi bisogna convenire su quali punti davvero modificare, poi c'è il processo di ratifica di tutti i paesi e naturalmente anche l'inevitabile esporsi al referendum, il cui esito in questi chiari di luna potete immaginare quale sia. Quindi nel frattempo secondo me la BCE è libera di fare il contra-revising all'europea, ed è una cosa i cui effetti sarebbero anche poi sul cambio dell'euro, perché non dimenticate che gli interventi di quantitative easing in America hanno l'effetto di deprezzare il valore del dollaro. Questo è un po' il punto di giornata sulla stampa internazionale, trovate variamente commentati dal punto di vista francese e tedesco, si aprono molto gli argini, perché se voi leggete Le Monde ieri o se leggiamo invece il Bild e la Frankfurter Allgemeine di oggi, a questo punto l'intesa franco-tedesca con i francesi che facevano da staffieri è definitivamente saltata, e infatti i toni verso la Francia che usa la grande stampa tedesca sono significativamente ispirati a mettere nel mirino una Francia che questa volta diventa renitente. Speriamo che entro l'8 dicembre la politica europea capisca che lo scontro non serve a niente. Allora, questo punto di giornata europeo, ma l'argomento sul quale oggi teniamo la trasmissione, tenendo sempre sott'occhio i mercati, e un altro, sono le tasse, torniamo a un cavallo di battaglia della versione di Oscar, ma cavallo di battaglia perché è uscito un libro di cui parliamo con la sua autrice, questo libro si intitola Resistere ad Equitalia, di Tricia Liberti, e l'ha scritto una giornalista del quotidiano nazionale, Elena Polidori, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questo libro ho deciso di parlarne perché noi ci occupiamo sistematicamente di questo, perché io sono, diciamo, un battagliero contro gli eccessi che ci riserva lo Stato, poi l'ho letto e ho deciso di chiamare Elena Polidori preavvisandovi che naturalmente tenteremo di portare di nuovo con noi, come abbiamo fatto più volte, anche Befra, il capo di Equitalia e il fondatore, diciamo così, colui che ha maggiore responsabilità nell'architettura delle agenzie in cui si articola l'amministrazione tributaria. Doveva essere con noi già 2 settimane fa, poi era saltato l'impegno, perché il libro poi in realtà parte da uno dei punti di cui ci occupammo proprio nei giorni di ottobre, e fu proprio Befra a venire ai nostri microfoni per chiarire i punti, cioè la famosa esecutività immediata saltando le cartelle esattoriali con le notifiche che hanno immediatamente valore dopo 60 giorni e consentono di procedere ai fermi e alle ipoteche, cosa che Befra venne a questi microfoni per dire non è affatto vero, non sono 60 giorni, i termini sono molto di più, perché ci sono 180 più altri 90 giorni, eccetera eccetera eccetera. Devo dire la verità che questo libro di Anna Polidori è un libro durissimo, do prima il giudizio poi le do la parola, è un libro durissimo perché mentre io sono molto duro nel dare la responsabilità politica ai ministri pro tempore, che portano la responsabilità per esempio nel caso del governo di centrodestra di aver detto una cosa per 17 anni e fatto l'esatto opposto, regalandoci il record di pressione fiscale e con una stretta molto forte delle procedure esecutive e ingiuntive per tirare su denaro, io tendo sempre a distinguere invece le responsabilità dei vertici amministrativi, perché i vertici amministrativi si chiede di fare un lavoro, ci danno gli strumenti per farlo, perché è il legislatore a farlo, non loro, e a quel punto loro lo fanno meglio che possono per appunto portare a casa il più che possono, cosa che secondo me stanno facendo in questi anni. Mentre invece Elena è un po' cattivella su questo, perché c'è proprio un problema con mette Befera allo stesso rango dei politici. Alla fine, alle conclusioni del libro, che io vi invito a leggere, dice insomma: i potenti in Italia, tra cui c'è anche Befera, hanno questa responsabilità. In questi anni hanno dato un giro di vite, sì, ma il giro di vite colpisce soprattutto non i veri responsabili dell'evasione fiscale italiana, di cui si sa dove stanno, a che categoria appartengono, eccetera. Hanno messo nel mirino povera gente a cui danno l'ipoteca sulla casa, gli bloccano le automobili per cose di poche centinaia di euro, gli scatta a quel punto l'ipoteca senza che loro lo sappiano, gli scatta la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, che ti rende un paria per anni perché ti rende incapace di qualunque rapporto di fido, di prestito, e può capitare anni e anni prima che tu resti iscritto. E quindi questa è una precisa regia politica, questa regia politica è quella di chi non ha voluto mettere le mani dove bisognava metterle e ha invece messo le mani esattamente dove non bisognava metterle. Io non sono molto d'accordo che questo debba coinvolgere anche i responsabili amministrativi, però è un libro, e ho finito il mio giudizio, fantastico, anche perché trovate una vera e propria guida dettagliatissima che Elena ha scritto in cooperazione con l'Abusdef su ogni singolo punto tecnico che riguarda l'intera procedura di notifica, gli accertamenti, le impugnative e quali sono i diritti del cittadino su ogni singolo passaggio che riguarda questi punti, con l'attenzione ai termini per le impugnative, alle modalità con cui procedere alle impugnative e a tutto ciò a cui dovete stare molto attenti se volete che i vostri diritti siano garantiti. E purtroppo nei rapporti con il fisco l'unilateralità asimmetrica, per cui lo Stato riserva a sé tutte le condizioni di vantaggio che invece nega quando siamo noi ad aspettare che ci paghi, quelle pretendono che siamo noi cittadini a saperle punto per punto, perché altrimenti ci si trova puntualmente nei guai. E in questa parte del libro è una vera e propria manualistica di sopravvivenza civile, per così dire. Allora, questa fine del mio giudizio, Napoleoni, perdonami, io ti ringrazio, dimmi perché hai deciso di scriverlo questo libro innanzitutto. Allora, tu hai detto bene che ho avuto un problema direttamente con il fisco. Allora, io mi sono svegliata una mattina e molto candidamente sono andata in banca e ho sentito dall'altra parte dello sportello una gentile signora che mi diceva: guardi, noi gli abbiamo bloccato il conto corrente perché lei è stata appena iscritta alla centrale rischi. E mi scusi, ma di che cosa stiamo parlando? E effettivamente era stata emessa un'ipoteca sulla mia casa. Io non avevo avuto alcuna comunicazione di quello che stava succedendo, per delle multe non pagate e in parte prescritte. Stiamo parlando di 1.500 euro di multe del Comune di Roma, un terzo delle quali già prescritte. Allora, tu capisci che la vita può cambiare quando le cose, come dire, improvvisamente diventano così difficili. E quindi niente, io ho cominciato la mia battaglia nei confronti di Equitalia, che poi ho vinto, anche se poi in realtà l'ipoteca sulla casa è rimasta perché loro si sono rifiutati e si continuano a rifiutare di toglierla, nonostante ormai i miei debiti con loro siano stati del tutto evasi. Però io non vorrei che questo libro passasse per una vendetta, perché non è una vendetta, cioè non è che, voglio dire, tutti i giornalisti che hanno, no, sarebbe una cosa anche scorretta. Io ho voluto mettere in mano alle persone che non sono come me, ma neanche come te, cioè persone che comunque sono avvezze a parlare con una pubblica amministrazione piuttosto che con un potente, anche se è semplicemente dall'altra parte dello sportello, e metterle in condizioni di difendersi. Perché? Perché non sempre l'amministrazione dello Stato è dalla parte del giusto, nel mio caso non lo era, per esempio. Certo, ci sono molti casi in cui l'amministrazione, l'Agenzia delle Entrate in particolare, riscontra degli eccessi anche dal punto di vista di IVA non pagata, di IRPEF non pagato e quant'altro. Però non stiamo parlando di questi casi, stiamo parlando di casi minimi in cui però tu ti vedi mettere un'ipoteca sulla casa quando questa non è possibile metterla. Ora, tra l'altro, parentesi, io ho interrogato Equitalia e ho interrogato l'Agenzia delle Entrate sul perché prima della sentenza della Cassazione del 2008 loro hanno applicato la possibilità di mettere l'ipoteca sulla casa in maniera restrittiva, diciamo, in maniera molto pericolosa nei confronti dei cittadini, anziché leggerla invece in maniera di apertura, nel senso di dare un avviso ai cittadini dicendo: guardate, noi abbiamo la possibilità di mettervi un'ipoteca sulla casa perché voi avete un debito da pagare. Che cosa facciamo? Perché non venite qua e ne parliamo? Ecco, tutto questo l'amministrazione non l'ha mai fatto, cioè non c'è stata mai una una voglia di mettersi veramente dalla parte del cittadino per riuscire a risolvere un problema. Poi questo mai non si risolve, allora io l'ipoteca te la metto lo stesso, però almeno ci devo provare. Ecco, perché io me la prendo con Befera? Ma in realtà non è che io me la prendo con Befera, come tu hai detto. Io me la sono presa con chi ha sempre fatto la faccia feroce nei confronti del cittadino contribuente e non l'ha invece fatta, anche per ragioni politiche che poi nel libro sono spiegate, ma che se vuoi più in là ne possiamo anche parlare, ha fatto insomma in modo di essere sempre aggressivo senza dare la possibilità anche di spiegare, di venire incontro e comunque di mettersi al servizio. D'altra parte stiamo parlando di un'amministrazione dello Stato, non stiamo parlando di Torquemada, e allora perché comportarsi così? Anche, voglio dire, il fisco, le tasse vanno pagate, non è che le tasse non si pagano. Io posso avere una multa che mi sono scordata, allora tu mi devi avvisare, amministrazione dello Stato, che io non ho pagato quella multa ed è mio dovere farlo, di poi venire da te e pagarla. Però un conto è che tutto questo iter di notifiche eccetera avviene, un conto è svegliarsi la mattina, come è successo a me, e torno alla tua domanda, e trovarsi davanti alla centrale rischi con un'ipoteca sulla casa e senza poter mettere le mani sul proprio conto corrente. Guarda che non è simpatico. Non è che sia simpatico, questa è una delle classiche dimostrazioni della simmetria totalmente inaccettabile di cui siamo vittime come cittadini. Dico solo che in un quadro in cui le amministrazioni pubbliche, e tante volte siamo costretti ad occuparcene, non brilla di efficienza, energia, spirito di intraprendenza e organizzazioni, diciamo, di un livello almeno accettabile, io invece riconosco, pur essendo fermo sostenitore di una visione dei rapporti con il fisco improntata a principi totalmente diversi da quelli del nostro Stato, perché noi abbiamo aliquote troppo alte, perché anche di questo è figlia l'evasione, eccetera eccetera, questa è la mia opinione, riconosco che nell'ambito dell'articolazione delle agenzie delle entrate negli anni 2000 con la riforma effettivamente Befera e la sua squadra io gli devo riconoscere di essere stati molto bravi, cioè quel poco e che comunque è tanto rispetto a prima che portiamo a casa, no, con la lotta all'evasione, è soprattutto figlio di questa impostazione. Per esempio nel libro, alla fine del libro, Elena Polidori dice: io qui ci sono una bella batteria di domande, sono tante domande che dice mi sarebbe piaciuto avere le risposte dirette da Befera, e mette le domande, però dice purtroppo la risposta non è venuta e quindi restano le domande. In quelle domande per esempio gli chiedi opinioni su politiche del governo di cui il vero responsabile è Tremonti, non è lui. Cioè, per esempio, introduciamo uno dei punti che tu più volte tratti nel libro. Dici: ma com'è possibile che l'Italia non abbia firmato con la Svizzera un accordo analogo a quello che hanno invece contrattato? No, perdona Oscar, scusami. Allora, hai ragione a dire questo, perché io lo scrivo, però in una parte del libro è scritto con grande chiarezza che Befera è una delle persone di cui lo Stato può farsi un vanto. Cioè io attacco il modo, non la persona né la funzione. Cioè, io non sto facendo la tesi di Befera, dico solo che io sono d'accordo a dire che chiediamolo a Tremonti, perché non abbiamo chiuso l'accordo con la Svizzera come hanno fatto invece i tedeschi e gli inglesi. Tremonti lo chiederai a Berlusconi, visto che Tremonti gliel'ha chiesto a Berlusconi, d'accordo, ma poi ha ricevuto una risposta negativa. D'accordo, cioè voglio dire, a chi porta la responsabilità politica di questo, ecco, insomma. Che poi l'amministrazione dello Stato, e quindi nel caso specifico Equitalia, sia il braccio armato della politica del governo dal punto di vista tributario e finanziario, su questo non ci sono dubbi, nel libro è scritto con grande chiarezza. È pur vero che c'è talvolta quell'eccesso di zelo che forse dal governo non è neanche richiesto, forse sì, ma questa poi è un'interpretazione che noi non possiamo dare se non attraverso i fatti che vediamo. Ebbene, questo eccesso di zelo tante volte crea il sospetto che ci sia la necessità anche da parte di questa amministrazione di dimostrare quanto è brava rispetto al governo che poi gli dà un mandato, non credi? Cioè, ecco, il mio sospetto di fronte al fatto che non è che solo Elena Polidori che è finita nelle maglie di questa tenaglia, c'è tutta Italia che bene o male ha qualche pendenza con Equitalia. Allora, sia vero che poi noi siamo tutto un popolo di evasori, nel bene e nel male. Ecco, io questa mi permetto di no, sostenere no, che non è così. Assolutamente, ma sono totalmente d'accordo, ci mancherebbe altro. E allora ti dico, questo eccesso di zelo che porta Equitalia a raschiare il fondo del barile, perché poi quando tu mi chiedi, mi metti un'ipoteca sulla casa per 1500 euro, stai raschiando il fondo del barile, perché io non posso interpretare diversamente anche dal punto di vista politico questa tua azione. Ebbene, non credi che ci sia stata, appunto, ma è una domanda diciamo anche un po' così divertente che ti faccio, non credi che ci sia stato sia da parte di Befera, ma forse anche di altri personaggi, la volontà di dimostrare a Tremonti nel caso specifico, ma negli ultimi anni è stato soprattutto lui al Ministero dell'Economia, che effettivamente si era molto bravi a fare il mestiere che era richiesto? Cioè, non credi che Befera si sarebbe potuto comportare, dico Befera per intendere Equitalia, comunque in senso molto, molto lato, non credi insomma che ci sia una via di mezzo possibile tra un'aggressività eccessiva come quella dimostrata fino adesso e un tentativo invece di mettersi comunque un po' anche dalla parte del cittadino, che non sempre poi fa le cose per bene, ma non è detto che poi sia sempre un evasore, ecco. Io credo che ci sia, ad aver ispirato Befera in questi anni, la sua squadra, il suo disegno organizzativo, ci sia una convinzione etica. Questo l'ho detto più volte, anche in dibattiti a cui ho partecipato con lui. Ci sia una fortissima visione etica. Cioè, l'uomo ha dato ai vertici dell'Agenzia delle Entrate, Equitalia è il braccio della riscossione, ha dato questa missione e lui è totalmente titolare di questa convinzione per la quale sono valori di morale pubblica quelli che devono rendere più efficiente il meccanismo. Non so se si tratti di rendersi, per così dire, brillante agli occhi della politica pro tempore, perché poi di fatto la politica ha confermato Befera in persona gli indirizzi organizzativi di cui è titolare, sia sotto centro-sinistra sia sotto centro-destra. È uno degli uomini più bipartisan che esistano, perché Vincenzo Visco e Tremonti su di lui, sulle sue conferme, anche sulle sue difese quando si è trovato esposto, come documenti nel libro, a un'indagine che era un'indagine abbastanza pesante da parte della Procura di Napoli, che per 3 anni lo ha esposto. In quel caso sempre la politica di entrambi i colori non ha potuto che confermare in Befera una delle parti più rigorosamente, teutonicamente, militarmente e infatti, dici tu, eccessivamente organizzate dell'articolazione pubblica. Il problema è che io mi trovo meglio a polemizzare con la politica, perché penso che sia il politico che deve cambiare le cose, e quindi in realtà io non posso che battere le mani al vertice amministrativo per come organizza le cose, stante che non è lui a, per esempio, darsi la facoltà di mettere ipoteche al di sotto della soglia di 8.000 euro, come giustamente ricordi nel tuo libro, solo pochissimi anni fa, nel 2010, noi lo dobbiamo poi a che cosa? Al legislatore. Noi lo dobbiamo a una sentenza della Cassazione che ha reintrodotto questo elementare principio per cui al di sotto degli 8.000 euro e al di sotto dei 20.000 se l'immobile è cointestato o se è prima casa, non è possibile per poche centinaia di euro di una multa accendere automaticamente l'ipoteca, ma è al legislatore che bisogna rompere la testa. In particolare, adesso andiamo in pubblicità, la mia convinzione è che proprio perché difendo opinioni, visioni dello Stato che si deve molto ritirare per me, per essere più efficiente, perché deve raggiungere un equilibrio a più basso livello di spesa con le entrate per restituire risorse alla crescita, proprio perché voglio difendere questo, devo essere durissimo e intransigente in chi a nome di questi stessi principi ha preso un pacco di voti una volta sì, una volta no in 17 anni, e poi ha fatto l'esatto opposto, e poi ha dato in realtà molto più spazio allo Stato discrezionale, e poi ha solo aumentato la spesa corrente, e poi ha solo aumentato le tasse, e poi ha solo a propria volta dato giri di vite alla possibilità di esazioni immediate sulla povera gente, in realtà levando credibilità e sostegno a ciò che per anni aveva alimentato come campagna, la campagna contro Visco Dracula. Dopo questi anni di centro destra, giustamente per questo secondo me mandato a casa e anche con il contributo di chi dice queste cose a questi microfoni, perdono qualunque peso e argomento, perché quello che abbiamo visto in questi anni è incomparabilmente peggiore. E perché è peggiore? Per me, perché non sono d'accordo con quella visione, ma perché è intollerabile che sia stato proposto da chi aveva lucrato consensi elettorali predicando l'esatto opposto, perché l'incoerenza e la contraddizione sono un vizio ancora incomparabilmente peggiore della visione etica che anima invece, io l'ho sempre riconosciuto, i Vincenzo Visco e i Befera. Eccoci, tornati qua in studio. Stiamo parlando di un libro che è intitolato Resistere ad Equitalia. Lo ha scritto Elena Polidori, giornalista del quotidiano nazionale, che è qui con noi. Quando ti è capitato il fatto, per così dire, di scoprirti con l'ipoteca sulla casa, quanto rapido è stato il corso di apprendimento, per così dire, con l'autotutela dei diritti? Nel senso che è ovvio, noi facciamo giornalisti, magari io me ne occupo strutturalmente di più, ci sono colleghi che, al di là di qualche spolverata generale, a quel punto, quando vengono colpiti da un fatto, devono rapidamente apprendere la complessa possibilità doverosa, anzi, dell'autodifesa. E come ti sei trovata apprendendo quanto asimmetrica era la condizione? Guarda, mi sono sentita persa, cioè è raro, noi siamo abbastanza avvezzi a dire, insomma, a imparare rapidamente, anche perché, insomma, non siamo spesso tuttologi e quindi subito scriviamo cose anche di cose che non conosciamo, però nel caso specifico io mi sono trovata persa perché non sapevo da che parte arrivare a capo della situazione. Prima di tutto ho dovuto capire dove andare, dove era il bandolo della matassa, cioè a che cosa si riferiva l'iscrizione alla centrale rischi. Quindi andare alla centrale rischi. Ora, ecco, questo fatto, che per me che sto a Roma può sembrare banale, perché la centrale rischi della Banca d'Italia è vicina, tra l'altro, a via 20 Settembre, ed è un luogo dove uno si presenta e dice: mi scusi, avrei bisogno di un'informazione. Ecco, chi non si trova a Roma, già l'idea di dover colloquiare con questa entità astratta che è la centrale rischi della Banca d'Italia forse può diventare un incubo. E questo però io l'ho risolto, perché sono andata lì, ho chiesto di parlare con un funzionario e a quel punto siamo risaliti alla mia pratica. A quel punto io ho scoperto che si trattava di multe non pagate del Comune di Roma, ma lì c'era poi la lettura autentica del funzionario, mi ha aiutato a decrittare dei codici che si riferivano a Comune anziché a IVA o IRPEF o altre tasse non pagate, perché ovviamente lì ci vuole qualcuno che ne sa di più. Detto questo, il problema è stato: e adesso che cosa faccio? Perché ho scoperto da che cosa deriva tutto questo, ma per togliere questo, diciamo, questa segnalazione alla centrale rischi, come faccio? Devo pagare e poi devo venire da voi? Eh sì, però c'è un iter burocratico lunghissimo. Cioè, io, per fartela breve, ci ho messo circa un anno per venire a capo della semplice segnalazione alla centrale rischi. Ovviamente dopo essere andata all'Agenzia delle Entrate e aver pagato tutto quello che c'era da pagare. Resta il fatto, dopodiché ho chiesto, come era mio diritto fare, all'Agenzia delle Entrate, e sto ovviamente sintetizzando al massimo questo iter, ho chiesto di poter togliere dalla mia casa l'ipoteca, mi è stato risposto di no. A quel punto ho investito un mio amico avvocato, perché noi giornalisti qualche amico avvocato ce l'abbiamo, ho investito un mio amico avvocato di mandare una lettera all'Agenzia delle Entrate dicendo: cari signori, io ho pagato tutto quanto, queste sono ricevute di pagamento, eccetera, eccetera, che vogliamo fare? Io sono andata in causa per questa cosa e alla fine mi hanno riconosciuto il fatto che l'ipoteca poteva essere tolta, ma devo dirti la verità che io non ho ancora ricevuto, e sono passati ormai 2 anni, non ho ancora ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, ossia da Equitalia, il foglio, insomma, la cosa su cui mi si dice che la cosa sulla casa è stata tolta in virtù del fatto che tutto è stato pagato. Bene, noi nel frattempo continuiamo a guardare, lo spread sta stabilmente sopra quota 500, decennale sopra il 7% di rendimento. Stamattina notizie di agenzia, procura di Trani in azione per arresti all'Agenzia delle Entrate di funzionari, dell'Agenzia delle Entrate di Barletta, funzionari infedeli che accettavano tangenti in cambio di ammorbidimenti delle verifiche. Naturalmente non stiamo sostenendo che le pecore nere che ci sono in qualunque chiunque, parte della pubblica amministrazione come nel privato, debbano essere confusi con l'etica, l'onore dell'Agenzia delle Entrate, tantomeno di Equitalia, Inge in generale. Diciamo solo che non sono immuni neanche loro, tant'è che nel libro documenti alcuni casi, come il caso di Equitalia a Torino, in cui anche lì la magistratura si è dovuta occupare di cose che non andavano. Poi, altra cosa ancora è uno dei capitoli che tratti in relazione al fatto di con chi se la prende soprattutto, per così dire, Equitalia, perché la tua tesi è si lascia un po' troppo in pace chi andrebbe invece meglio accertato e riscosso e ci si dedica un po' troppo invece alla povera gente. Allora, prima di ricederti la parola, abbiamo con noi per pochi minuti Giuseppe Bortolussi, che è segretario della CIGIALA, cioè l'Associazione Artigiani delle Piccole Imprese di Mestre, che sentiamo spessissimo, perché ieri la CGIA di Mestre ha detto: beh, insomma, di evasori totali non è che ne abbiamo portati a casa pochi in questi anni, è vero o no, Bortolussi? Buongiorno. Buongiorno a voi. Beh, abbiamo detto che finalmente si dà la caccia agli evasori totali, a gente che sbeffeggia il fisco e gli altri cittadini, perché è bello parlare sempre dell'idraulico, no? Però c'è gente che evade milioni e forse anche miliardi, almeno la base imponibile è ampia, e dopodiché non se ne sa nulla, ogni tanto arriva uno scudo fiscale e, come diceva giustamente lei e come dice questo bellissimo libro, in pratica c'è chi è troppo grande per fallire, ma c'è anche chi è troppo grande per essere controllato e vive vita felice. E molti hanno imparato una cosa, che il fisco, se tu evadi poco, ti viene a cercare. Quando sei nel suo radar ti trova, quando non sei dentro il radar di solito vivi una vita felice. E allora i grandi patrimoni, compresi quelli che hanno, ma anche di grandi società, di grandi banche, che hanno poi le loro sedi all'estero, molto spesso vivono felici e sono contenti anche di introdurre la patrimoniale, perché tanto quei beni sono intestati a società estere. E quindi bisogna stare attenti, perché anche qui in Italia è uno strano paese dove si parla di evasione per 110 miliardi, dentro ci sono anche i contributi previdenziali, per dire la verità. E di questi 110 poi ne vengono accertati qualcosa come diciamo poche decine accertati. Poi quelli che Equitalia riesce ad esigere dai cittadini, pur con mezzi spesso non condivisibili, arriva all'11%. Quindi bisogna anche stare attenti, perché c'è chi continua a farla franca. Da un lato dico che Equitalia ha raggiunto una certa efficienza, spesso con mezzi, ripeto, non condivisibili, perché quando tu metti le ganasce fiscali a un strumento di lavoro come può essere il furgoncino, quello non solo non pagherà quanto deve al fisco, ma non lavora neanche più, non manterrà neanche la famiglia. Quindi forse bisognerebbe farci una riflessione. Però rimane il fatto che si deve raggiungere ancora una maggiore efficienza, non con quei mezzi, e soprattutto, come dice giustamente questo libro, stare attenti, perché ci sono i piccoli che vengono rovinati spesso da certi interventi, e invece poi lo Stato, mette il caso di quello che ha fatto dei lavori per un piccolo comune, avanza i soldi ed è da un anno e mezzo che li aspetta. Quando poi lo Stato avanza da lui qualche decina di euro, magari di IVA o di cosa, per un errore, poi ci sono le ganasce. E quindi capisce che c'è una sproporzione. A me piacerebbe vivere in un paese liberale dove lo Stato è messo sullo stesso piano del cittadino, cioè gli stessi diritti, gli stessi doveri. Non è così, perché lo Stato paga a volte a 300 giorni, ma è molto cattivo quando deve esigere anche delle cifre basse, sostanzialmente ininfluenti per l'equilibrio economico. Sono completamente d'accordo con queste opinioni di Giuseppe Bortolussi. La mia opinione è che fosse al governo qualcuno di noi, e io mi auguro che, per esempio, ma ci andremo, Oscar, no, ci andremo. Ma non lo so, io mi auguro che questo governo possa farlo. Per esempio, il banale principio per il quale le misure coattive devono essere proporzionate alla capacità di produzione, bravissimo, del reddito di coloro a cui si applicano, che è un principio elementare, perché secondo me è di garanzia per lo Stato di avere poi gli, i soldi che chiede, se sono accertati bene e così via, perché semplicemente altrimenti se noi blocchiamo, come hai detto, la possibilità di produrre reddito e roviniamo la gente, lo Stato non porta a casa niente e in più mandiamo all'inferno le persone, dandogli una condizione che è inaccettabile per un paese di diritto. Quindi la mia opinione lì è una cosa che dica: gli interventi devono essere correlati alla capacità di produzione del reddito, mi sembra anche un principio costituzionale. Che dice Elena Polidori, saresti d'accordo? Assolutamente sì, sarebbe bellissimo. Innanzitutto saluto Giuseppe Bortolussi, ma il problema fondamentale è esattamente questo, cioè il fatto di non avere di avere questa, diciamo, questo non corrispettivo, questa esasperazione anche, che non mi piace per niente. Io per esempio prima, scusami, ma avevo in mente una cosa che ti volevo dire, che riguardava proprio la parte politica. La parte politica è questa, cioè il fatto che il cittadino italiano si sente vessato dal fisco, poi vede che però non si riesce a fare un accordo con la Svizzera perché per motivi ovviamente politici, e quindi paesi come l'Inghilterra piuttosto che paesi come la Germania riescono, pur mantenendo l'anonimato dei grandi evasori, ad avere comunque qualcosa attraverso questo accordo, e noi non riusciamo a fare la stessa cosa. Perché? Cioè, questo è anche questo un motivo politico che andrebbe sondato. Ecco perché poi quando si dice è il piccolo cittadino quello che viene colpito, perché il fisco sa perfettamente, come diceva prima Bortoluzzi, ti traccia, quindi ti trova, perché tu sei conosciuto, hai una piccola cosa, la casa, la motocicletta, la macchina. Ecco, io metto sotto sequestro questo piccolo tuo bene. Quando invece si parla di altri immensi patrimoni che invece non vengono in qualche maniera toccati, ma non vengono neanche sondati, insomma c'è qualcosa che non va. È chiaro che paesi dove avvengono cose eclatanti, spettacolari, come quelle che abbiamo letto ieri e l'altro ieri, relativo a questi due coniugi che dichiaravano 6 euro in due di reddito, assolutamente straordinaria quella, cioè 200 di milioni di euro all'estero, e loro che non dei nulla tenenti totali. Anche lì poi per caso si è scoperto, sì, perché hanno venduto un terreno, perché, cioè, ecco, tu capisci che non possiamo andare avanti hanno venduto un terreno di 180 ettari, e non era proprio piccolo, era una roba neanche, di un appezzamento, un orticello di casa non era, esatto. Ecco, voglio dire, non è anche una cosa abbastanza visibile. Posso dirti che io faccio anche consulente professionale, tra i miei clienti c'era un coro di ammirazione, che non era il consenso e non era l'invidia, il coro di ammirazione per il fegato assoluto che evidentemente deve contraddistinguere queste categorie di italiani, perché insomma ammettiamolo, per noi, io sono un libero professionista, fatturo anche gli starnuti e vivo nel terrore, perché siccome quando si entra in contenzioso si può prendere una brutta piega, vivo nel terrore di dimenticare qualunque cosa, e quindi i commercialisti e il sottoscritto campano molto male. Ma l'idea di vivere nella totale immersione, sfidando così l'amministrazione tributaria, lo Stato, sfidando la sorte e il caso, perché ti può capitare una qualunque cosa per cui poi alla fine emerge tutto, è una condizione nella quale io non riesco a capire come ci si possa stare. Bisogna avere un cuore, un sistema cardiocircolatorio grande così, e tra alcuni i miei clienti le battute erano: l'invidia è totale, perché evidentemente devono avere un sistema immunitario che li mette al riparo dal terrore di noi poveri contribuenti, invece che viviamo sotto le scadenze nel terrore di sbagliare qualcosa nella compilazione di qualche virgola. E mentre riparte, conclusione come all'inizio di trasmissione, i Doors, sentiamo rapidamente come la pensa qualche ascoltatore. Roberto, che ci chiama dalla provincia di Novara, prego Roberto. Caro Giannino, salve. Allora, sarò breve. La mia esperienza con Equitalia è stata per un credito IVA. Io lavoro all'estero e sono sempre in credito IVA, e sono rimasto un po' stupefatto, perché a parte che il credito IVA non si può compensare immediatamente, io adesso al 30 di novembre devo pagare una cifra esorbitante di acconto dell'anno prossimo delle mie tasse e non posso compensare l'IVA, ma la ciliegina sulla torta è che l'anno scorso per poter a marzo avere il compenso dell'IVA sono dovuto andare a Equitalia per farmi dire da Equitalia che io non ero debitore con lo Stato, quando lo Stato era debitore con me. La cosa buffa è che ho chiesto a Equitalia, una, prima di recarmi all'ufficio, ho telefonato a Equitalia, ho chiesto se avevano una casella di posta certificata per fare la richiesta via posta elettronica, e loro non hanno una casella di posta certificata. Questo ha fatto girare ancora più enormemente i cosiddetti. Sono andato da Equitalia e lì, a parte perdere mezza giornata di lavoro, ma poi la situazione è assolutamente di mancanza di privacy, dove in pubblico, in una stanza pubblica, della gente parla dei propri problemi, uno ha il penale, l'altro deve pagare tot migliaia di euro e non li ha, l'altro con le lacrime agli occhi. Dico, se questo è un paese civile dove io devo anticipare i soldi a questo cavolo di Stato che me ne deve a me, e poi per poterli prendere indietro devo fare tutta questa trafila umiliante, tra l'altro, quando il Brunetta ha fatto la posta certificata, ci ha obbligato tutti, non lo so, io sono allibito, oltre a essere anche con il portafoglio vuoto. Infatti, oltre a essere col portafoglio vuoto, condivido. Stefano da Reggio Emilia, prego Stefano. Buongiorno, siete stati talmente esaustivi che il mio intervento diventa ridicolo. In ogni caso, per far capire in che paese siamo, mi viene sequestrato il furgone per una multa presa a Salerno. Il bello è che io non sono mai stato a Salerno. Vado da un avvocato, io non ho l'avvocato perché non ho mai avuto problemi, vado da uno che mi può aiutare, mi dice non posso fare nulla perché tu devi prendere un avvocato del foro competente, quindi io sarei dovuto andare a Salerno, prendere un avvocato del foro competente, quindi cosa faccio? Io col furgone devo lavorarci, pago la multa, 250 euro. Il bello qual è? Che alla fine dell'anno Equitalia questi soldi dice che li ha presi come evasione, come recupero dell'evasione. E delle mie situazioni penso che ce ne siano molte. Va bene. Questi infatti le telefonate lo sapevo che erano così. Alessandra da Pisa, rapidissima. Sì, rapidissima. Io a proposito di come Equitalia usa il suo tempo, a me hanno mandato un accertamento per l'equivalente di 50.000 lire che io non avrei pagato nel 1993, e questa cosa mi è arrivata l'anno scorso. Naturalmente io nel 1993 non mi ricordo affatto che cosa non ho pagato, e certamente non evadevo 50.000 lire, non c'è stato verso di sapere nulla, mi dicono di aver mandato una lettera di cui non hanno prova, io non ho pagato naturalmente, però rimango con questa simpatica situazione che è una scemenza ovviamente. Però testimonia della confusione. Allora, su questo abbiamo avuto con noi oggi Elena Polidori, giornalista del Quotidiano Nazionale e autrice del libro Resistere ad Equitalia, vi consiglio di leggerlo, la parte del manuale sui vostri diritti è molto utile, e naturalmente noi però abbiamo un impegno, Befera torni qui con noi a rassicurarci, perché la stima da parte mia e la distinzione nei confronti della politica è totale, e la politica che ha fatto il contrario di quello che aveva promesso. Noi liberali sopravviveremo con le nostre idee alle cazzate ignominiose di chi ha in nome dei principi liberali fatto l'opposto. Appuntamento a lunedì, e grazie ancora a Elena Polidori.